Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, benvenuti a Salvadanaio. Conti correnti troppo cari, problemi con il mutuo, ma anche con gli investimenti e la gestione del risparmio. Se ci si trova in difficoltà con la propria banca, non parliamo di nulla di nuovo, anzi di una situazione che magari può essere anche piuttosto frequente, o con un altro intermediario finanziario, e se si pensa di essere vittima di una scorrettezza, a volte può prevalere la sensazione di impotenza, che ci fa abbandonare in partenza l'idea di andare a fondo della questione risolta. Per aiutare i cittadini a difendersi e a non sentirsi troppo piccoli di fronte ad istituti invece spesso troppo grandi, ma non per questo infallibili nelle decisioni che prendono e nelle scelte che fanno, è nata da qualche anno la figura dell'arbitro bancario e finanziario, un organismo indipendente voluto dalla Banca d'Italia che gestisce la mediazione in caso di controversia fra cliente e banca. Il numero di cittadini che si rivolge a questo servizio sta crescendo esponenzialmente e ha superato i 4.000 casi in poco più di 2 anni, una cifra destinata sicuramente a crescere se si considera che da marzo passare dal giudizio dell'arbitro è obbligatorio prima di ricorrere alle autorità giudiziarie. Noi oggi a Salva Danaio torniamo a parlare di questo strumento, lo abbiamo già fatto in passato mettendolo a confronto anche con gli altri organismi di risoluzione delle controversie di natura commerciale in via stragiudiziale, ma ci soffermeremo soprattutto sull'attività di questa, spiegandovene il funzionamento e facendo il punto sulle ultime novità che sono arrivate dal 1 gennaio di quest'anno. Parleremo con il professor Antonio Gambero, professore ordinario di diritto civile presso la facoltà di giurisprudenza all'Università di Milano e anche avvocato e autore di una vasta produzione nel campo del diritto civile e del diritto privato, ma è soprattutto tra i componenti del collegio dell'arbitro bancario e finanziario di Milano, perché è suddiviso territorialmente in 3 zone, poi vi spiegheremo le motivazioni. Professor Gambero, buongiorno e bentornato a Salva Danaio. Mi sente? Sì, la sento perfettamente. Eccoci qua, buongiorno e grazie, così come abbiamo come sempre bisogno anche del conforto e dell'ausilio del grillo parlante delle associazioni dei consumatori, con noi è tornata questa mattina Anna Vizzari dell'Ufficio Studi Economico Giuridici di Altro Consumo. Dottoressa Vizzari, buongiorno e bentornata anche buongiorno lei. Buongiorno a voi, grazie. Siamo ancora in tempo ad entrambi per augurarvi buon anno, ci riserviamo questo diritto e questa facoltà almeno fino alla fine di gennaio. Allora, 800 24 00 24, il numero verde che vi dà l'opportunità come sempre di intervenire in diretta, raccontateci la vostra ultima disavventura con la banca, l'avete risolta o ancora no, come avete deciso di fare, perché chiaramente la prima via, che tra l'altro è anche il presupposto fondamentale poi eventualmente per accedere all'attività dell'arbitro, all'ausilio, alla consulenza dell'arbitro bancario e finanziario, la prima via è quella di rivolgersi direttamente all'ufficio reclami della banca. Se lì non si riesce ad ottenere niente, poi ci sono tutte le altre vie da poter percorrere ed intraprendere. Quindi che cosa avete fatto? Qual è la disavventura che avete ancora in ballo e che non siete riusciti a risolvere? Raccontatecelo appunto al numero verde, oppure ci potete scrivere attraverso tante vie, 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi. salvadanaio@radio24.it se ci volete scrivere delle mail. Se invece volete animare il social network, il nostro indirizzo, il nostro profilo naturalmente anche su Facebook è salvadanaio-radio24. Diamo un'occhiata alla borsa oggi. Giornata un po' di indecisione a quanto pare per gli investitori, perché il mercato era partito piuttosto piatto dopo i rialzi degli ultimi 2 giorni, che è stato anche abbastanza avvincente da osservare, visto che le borse non hanno preso in considerazione le ultime decisioni delle agenzie di rating, in particolar modo quella di venerdì scorso di Standard & Poor's e quella che ha già preannunciato anche Fitch, che intende ritagliare il rating sovrano italiano entro la fine di gennaio. Forse anche qua ci toccherà fare a meno di un paio di tacche. Il mercato appunto non sta prendendo particolarmente in considerazione, ormai assuefatto e abituato a questi interventi, e il mercato, vi dicevo, era partito piatto, poi è passato in negativo, poi ha recuperato tutto, gli indici sono arrivati a guadagnare oltre mezzo punto, Milano è arrivata a più 0 7,08% e adesso di nuovo in rallentamento, più 0,16% sul FTSE MIB, Parigi più 0,22%, Francoforte più 0,33%, Londra più 0,10%, l'euro riconquista 1,28% sul dollaro, lo spread fra BTP e Bund, anche questo termometro continuiamo ad osservarlo, è sui 464-65 punti base, quindi il rendimento del titolo decennale italiano è ancora un po' in discesa sotto i 6 punti e mezzo al 6,45%. Il mercato oggi punta a Piazza Affari sui titoli STM più 3,59%. Bene anche Finmeccanica, in rialzo di 2 punti percentuali, Popolare di Milano più 2,40%, Lottomatica più 2,33%, A2A più 1,44%, Azimut più 1,30%, questi i migliori titoli. Sono invece in discesa i titoli della galassia Fiat, che hanno fatto bene negli ultimi giorni, nonostante le vendite di auto nel mese di dicembre abbiano mostrato una flessione delle immatricolazioni del 15,6%, questo è un dato europeo, e quindi i titoli appunto ieri in rialzo, oggi riperdono quota, sono in ribasso di 1,5 punti. Enel Green Power perde l'1,64%, Pirelli meno 1 punto, Ansaldo in ribasso di 1 punto, insomma questa è la situazione di stamattina, in attesa anche delle indicazioni che arriveranno da Londra, perché Monti incontra Cameron, oggi cercherà di convincere gli investitori anglosassoni a mantenere le loro posizioni sui titoli del debito italiano, e chissà se ce la farà, visto che ieri l'incontro con la Merkel non è stato poi così promettente in quanto ad auspici finali. Poi ci sono tante trimestrali che arrivano dagli Stati Uniti, negli Stati Uniti pare che qualche segno di ripresa ci sia, e le indicazioni appunto che arrivano anche dal settore societario sono sicuramente molto interessanti. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, parliamo delle difficoltà che abbiamo a volte con la banca, quando la banca si comporta in maniera scorretta, come possiamo farle cambiare passo, ci si può rivolgere all'arbitro bancario finanziario. Sentiamo. In poco più di 2 anni è già intervenuto più di 4.000 volte per interrompere una partita, alzare un cartellino rosso o risolvere un litigio. Il campo è quello, non certo di semplice gestione, che vede in gioco le banche e i loro clienti. A fare da mediatore dal 15 ottobre 2009 c'è Arbitro Bancario e Finanziario, una figura indipendente voluta da Banca Italia come alternativa stragiudiziale per aiutare clientela, banche e intermediari a trovare una soluzione a controversie e reclami. I casi più frequenti riguardano conti correnti bancari e postali, seguiti da mutui e contratti bancari in genere. Presentare un ricorso a questo organismo o in alternativa avviare un processo di mediazione è diventato un passaggio obbligatorio prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria per controversie di questo tipo. Fare ricorso all'arbitro non è costoso per il cliente, che deve limitarsi a versare 20 euro, che vengono oltretutto rimborsati in caso di accoglimento del reclamo. L'assistenza di un avvocato non è necessaria. Dal 1 gennaio 2012 sono state introdotte alcune novità, che riguardano principalmente il funzionamento dei collegi e le procedure di ricorso. Un'attenzione particolare va rivolta alle date. Finora era possibile presentare all'arbitro reclami relativi a tutte le operazioni o i comportamenti avvenuti dal 2007 compreso in poi, mentre a partire dal prossimo 1 luglio dovranno riferirsi a questioni successive al 1 gennaio 2009. Le decisioni prese, inoltre, sono pubblicate sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it. Un servizio utilissimo per il consumatore, che ha così la possibilità di accorgersi di infrazioni e scorrettezze subite, diventando più consapevole dei propri diritti. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande, se volete intervenire in diretta, altrimenti potete scriverci al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, o potete andare anche ad animare la conversazione che abbiamo già attivato su questo argomento su Facebook, salvadanaio-radio24. Su questo argomento lo segnalo e lo salutiamo anche, ci scrive Fabio Picciolini della Diconsum, che segnala il ricorso all'arbitro bancario e la percentuale di successo sia dei ricorsi dei consumatori sia di abbandono del contenzioso per accordo tra banca e cliente è la faccia positiva della medaglia, che vede dall'altra parte l'insuccesso della Camera di Conciliazione della Consob su questi temi. Due sistemi, uno semplice a costo contenuto, uno complicato e oneroso, incoerenze italiane. Salutiamo Fabio Picciolini. Professor Gambero, vogliamo intanto spiegare agli ascoltatori come mai lei sta a Milano e c'è un collegio a Milano di questo istituto, mentre altri due ce ne sono appunto uno in in centro Italia e uno al sud, se non ricordo male. Però... Roma e Napoli. Ecco, come mai c'è stata questa organizzazione territoriale dell'arbitro? Ma questa è una decisione di Banca Italia, che penso sia una decisione tuttavia saggia, nel senso che avere tre collegi evidentemente serve a ripartire un po' i flussi dei ricorsi che dobbiamo fronteggiare. Devo dire che Milano copre un'area molto vasta e molto diciamo bancariamente attiva, con il risultato che abbiamo molto più ricorsi di altri collegi, ad esempio quasi il doppio di Napoli. Però ecco, questa ripartizione serve appunto a mantenere una certa velocità nelle decisioni, che è essenziale per il funzionamento di un organismo di Alternative Dispute Resolution come il nostro. Se non siamo rapidi nel risolvere le questioni, perdiamo un po' di appeal. Certo, tra l'altro professore poi ci racconterà anche come funziona la vostra, chiamiamola così, istruttoria dei casi che vi vengono sottoposti dai clienti bancari insoddisfatti. Le cifre parlano chiaro, come appunto lei ci diceva, io ho un bilancio che si rifà a qualche mese addietro, comunque i ricorsi arrivati sono in buona parte, come ci diceva il professor Gambero, dal nord, a fine dicembre dell'anno scorso, quindi non del 2011 ma del 2010, erano 1500 casi, adesso si parla di 4000 casi complessivi, però forse, professor Gambero, il bilancio potrebbe essere ancora aggiornato. Sarà sicuramente aggiornato al 31 dicembre, adesso bisognerà che le segreterie tecniche preparino una statistica definitiva, però devo segnalare che il collegio di Milano ha incrementato del 50% il numero delle sue decisioni, quindi siamo effettivamente nella parte alta della curva. È un'attività molto impegnativa per lei, professore, appartenere a questo collegio e quindi esaminare questi casi, queste situazioni? Ma sta molto impegnativa e forse eccessivo, sicuramente richiede impegno, perché bisogna esaminare. Abbiamo una media di 25 casi per seduta e facciamo circa 5-6 sedute al mese. Però non sono pochi. Senta, quali sono i casi più, mi viene da dire, curiosi, pittoreschi, quelli che la fanno proprio indispettire, che dice ma è mai possibile che la banca deve comportarsi in questo modo? Perché credo che il caso più frequente che viene sottoposto all'arbitro bancario sia quello di modifica delle condizioni dei contratti in maniera unilaterale, prassi ricorrente nel sistema bancario, ma che non è. Ma quelle però stanno molto diminuendo. Sì, quelle stanno molto diminuendo, i casi di modifica unilaterale, che comunque è ammessa, ma secondo una certa procedura che spesso in passato le banche tendevano, come dire, a saltare. Ecco, questi casi stanno molto diminuendo. Quindi abbiamo ancora parecchi casi di frodi informatiche che sono abbastanza standardizzati, nel senso che essendoci una direttiva europea, ma è una disciplina ad hoc. Che non sono colpa della banca, ma a volte la banca non vuole fare quello che è sua competenza per il risarcimento. Non è questione lì di colpa o meno, tanto c'è un'imputazione del rischio di frode informatica all'intermediario, quindi alle banche, e molte banche nicchiano dicendo che non hanno nessuna colpa, ma non è una questione di colpa, è una questione di imputazione del rischio. Ci sono dei rischi evidentemente inevitabili nelle transazioni informatiche, e la scelta a livello europeo è di imputare questi rischi essenzialmente all'intermediario. Benissimo, allora, come risoluzione alternativa delle controversie commerciali, quindi in questo campo, in questo caso tra banca e intermediario appunto del credito, ci sono tanti istituti, non c'è solo l'arbitro bancario. Poi mi farò fare una panoramica, non riesco a farla adesso perché devo già fare la prima pausa con Anna Vizzari, per chiedere anche quali preferiscono le associazioni dei consumatori, che i clienti, che i consumatori appunto utilizzano, se ce ne sono alcuni più efficaci in un certo campo piuttosto che in un altro. Insomma, sentiremo anche l'idea dell'associazione dei consumatori. Eccoci ritrovati in diretta, oggi ritorniamo su un tema che in passato per la verità è stato un grande cavallo di battaglia nella nostra trasmissione, poi sono arrivate le crisi, abbiamo dovuto dirottare la nostra attenzione su altri argomenti, ma non per questo appunto la conflittualità con il sistema bancario si è ridotta, anzi forse in questo periodo per il fatto che le erogazioni del credito sono molto rarefatte, si sono ridotte molto, appunto, e anche le condizioni con cui le banche erogano prestiti e finanziamenti cambiano di minuto in minuto. Anche questo in realtà rappresenta in questo momento un terreno molto ricco, appunto, di conflittualità, però non so se per risolvere anche questi problemi ci si può rivolgere all'arbitro bancario finanziario, che è l'istituto del quale parliamo questa mattina, nato nel 2009 per iniziativa della Banca d'Italia e che a Navizzari di Altro Consumo ha arricchito il panorama degli organismi presso i quali ci si può rivolgere, appunto, per risolvere, come dicevo, la conflittualità con il proprio istituto di credito, con un altro intermediario finanziario. Ci fa una panoramica rispetto a quelli che sono gli altri modi per risolvere in via stragiudiziaria le controversie di questo tipo? Sì, allora devo dire che ha aumentato il numero degli operatori sicuramente sul mercato, ma diciamo che ha anche innovato il mercato, perché sicuramente rappresenta uno dei meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie che noi associazioni consideriamo più positivamente, soprattutto perché rappresenta effettivamente uno strumento per risolvere delle problematiche di tutela del consumatore che gli intermediari sembrano dimenticare. Prima parlavamo di frodi informatiche. Ancora oggi nei contratti di conto corrente ci sono delle clausole vessatorie che non riproducono la normativa che richiamava prima il professore della direttiva europea e che quindi esonerano completamente gli intermediari dalla responsabilità nel caso in cui ci siano degli utilizzi fraudolenti. Nel caso in cui il bancomat ci venga clonato. No, il codice di accesso più che altro ai conti correnti online, per cui sicuramente le decisioni dell'arbitro che vengono poi pubblicate online rappresentano degli strumenti utili per capire quali sono effettivamente i diritti del cliente, che sono peraltro sanciti dalla normativa, ma che spesso gli intermediari cercano in qualche modo di far dimenticare i clienti, mettendo delle clausole vessatorie nei contratti. Allora, detto questo, sicuramente ci sono altre modalità per poter risolvere in maniera extragiudiziaria le controversie. Prima il mio collega Fabio Picciolini ha parlato della Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob. Ecco, quello è un esempio di come purtroppo ci possono essere dei meccanismi non efficienti, perché si tratta sicuramente... Neanche me la ricordavo io, pensi un po' lei. Esatto, ecco, ricordiamo che l'arbitro bancario non è competente per controversie che riguardano materia di investimento. Esatto, quindi la tutela e la correttezza delle operazioni di investimento. Ha fatto bene a ricordarlo, mi scusi se la interrompo perché c'era un ascoltatore che voleva intervenire a proposito di negoziazioni di azioni Parmalat, l'ultimo giorno di contrattazione per cui parliamo del 2003, voleva capire se si poteva rivolgere a questo organismo, appunto, per risolvere quel caso. Oltretutto bisogna ricordare anche che c'è un arco temporale arretrato da tenere in considerazione, per questo col professor Gambero appunto lo ricordiamo. Detto questo, dottoressa Vizzari, mi scusi. Sulle controversie in materia di attività di investimento, sicuramente la Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob rappresenta uno dei meccanismi di risoluzione extragiudiziaria delle controversie, una possibilità. Purtroppo però si tratta di uno strumento che finora è stato molto inefficiente, innanzitutto perché ha impiegato moltissimo per diventare operativo. Attualmente è operativo un sito online, però riteniamo la procedura molto complicata perché bisogna registrarsi online sul sito, compilare il modulo online, quindi avere una username, una password, compilare il modulo online, dopodiché spedirlo all'intermediario online, dopo entro 30 giorni da questa spedizione fare però comunque una spedizione cartacea alla Camera. Mamma mia. Prima ovviamente bisogna pagare sempre un contributo spese di 30 euro e poi comunque ci sono le tariffe dovute alla conciliazione. Ecco qua, quindi ecco, questo è già più caro come di partenza, sia in termini di tempo che di denaro rispetto alla BF, perché la BF richiede un pagamento di 20 euro che poi, per la verità, se il conflitto si risolve favorevolmente per il consumatore, vengono anche rimborsati questi soldi. Certo, quindi nel caso, poi ovviamente stiamo parlando di sistemi differenti, perché ricordiamo che la Camera di Conciliazione è una Camera che gestisce sostanzialmente la procedura ma non prende delle decisioni, per cui c'è un elenco di conciliatori, viene attribuito un conciliatore alla specifica controversia che poi si occuperà, un conciliatore terzo che si occuperà di trovare un accordo tra le parti, quindi si arriva sostanzialmente a un accordo che non è una decisione come quella dell'arbitro, che sicuramente ha più difficoltà di essere raggiunta. Ecco, l'accordo è sicuramente più difficile da raggiungere perché stiamo parlando di reclami che non sono stati risolti dall'intermediario, quindi ci sarà una motivazione alla base, immagino, per l'intermediario. Infatti. Ecco, professor Gambero, ci dica un po' come funziona, le banche ottemperano sempre alle vostre decisioni o qualche volta sono recalcitranti e bisogna intervenire ancora successivamente? No, direi che ottemperano sempre, nel senso che l'intermediario inottemperante mi pare che in 2 anni ce ne sia stato uno solo, che però non è una banca, è un 106, anche fallito, poveretto, quindi. Infatti, perché ero già lì pronta a chiederle, ci dica subito chi è. Non poteva fare granché di diverso, tutti gli altri hanno sempre adempiuto. Allora, io tra l'altro volevo segnalare in questo momento, siamo molto contenti che con il profilo Facebook abbiamo toccato in questo istante quota 1000 sostenitori del nostro profilo, quindi li ringraziamo. E a tal proposito leggo anche quello che ci scrive un'ascoltatrice, Daniela, che ci racconta, ci chiede anzi, la banca ha la possibilità arbitraria di addebitarmi 30 euro semestrali per visure ipocatastali? Dicono che sono necessarie per il rinnovo del fido che mi hanno accordato. Ho il diritto di chiederne il rimborso se nel contratto di fido non era prevista questa spesa? Professor Gambero, potrebbe essere un caso da sottoporre all'attenzione della BR? Quello delle spese, diciamo, di gestione dei fidi è un capitolo abbastanza intricato, però se non è previsto una spesa di gestione, se non è concordata, una spesa non può essere addebitata. Certo. È tutto un problema di accordo. Certo, poi chiaramente qualche volta bisogna anche vedere, a parte che, ripeto, il costo dell'avvio di questa istruttoria è di 20 euro, per cui qualche volta è chiaro che per una richiesta di restituzione di 30 euro addebitate in maniera che non reputava corretta Daniela, magari il gioco non vale la candela. Detto questo, qualche volta banalmente anche una questione di principio, forse di correttezza. Però lì bisogna anzitutto fare reclamo. Infatti, esatto, però professor Gambero, ricordiamolo che prima di tutto la BR ha la necessità di avere la dimostrazione che il cliente abbia già sporto un regolare reclamo alla banca, poi può venire da voi. Sì, perché noi sostanzialmente giudichiamo sul mancato accoglimento di un reclamo, cioè il cliente reclama presso l'intermediario, se non ottiene risposta o se ottiene una risposta negativa, quindi per lui insoddisfacente, allora chiede all'ABF di vagliare se, diciamo, il rifiuto, il silenzio della banca è legittimo o meno. Tutto qua. Esistono dei limiti economici, sì, ai casi che trattate, professor Gambero? Quali, sì, sono? Esiste, noi siamo sostanzialmente un organismo che serve per quelli che si chiamano gli small claims, quindi c'è un tetto massimo di 100.000 euro per domande risarcitorie. Però insomma sono sempre dei signori soldi, insomma, ecco. Però ecco, non sono controversie tra grosse imprese o grosse entità economiche e le banche, quelle non le vediamo. Certo, dottoressa Vizzari, adesso abbiamo anche gli ascoltatori e sono pronta a sentirli. Volevo solo fare un'ultima riflessione, perché noi in passato abbiamo fatto tante trasmissioni su un altro organismo che conoscevamo, che era istituito in seno ABI, Associazione delle Banche Italiane, era l'Ombudsman. Che fine ha fatto questo organismo, che aveva questo nome impronunciabile, però in realtà era molto utilizzato anche dai consumatori? Allora, l'Ombudsman in realtà esiste ancora ed è accompagnato anche dal cosiddetto conciliatore bancario e finanziario, quindi sono organismi sempre appunto gestiti dall'ABI che appunto prevedono dei tentativi di conciliazione sempre in materia bancaria e finanziaria. Sicuramente il conciliatore bancario e finanziario può essere un'alternativa alla Camera Consob in caso appunto di controversie sulle attività di investimento, per esempio. Anche in questo caso ci sono delle tariffe che sono comunque abbastanza elevate. Perché comunque ho visto da poco appunto il tariffario, si parte dai 200 euro per liti di massimo 5.000 euro, si arriva fino a 10.000 euro per liti di valore superiore, ovviamente, stiamo parlando di 5 milioni di euro. Quindi sostanzialmente diciamo che il cliente ha dei costi, insomma, da sopportare per questo tentativo di mediazione da parte del conciliatore. Ci sono poi i tavoli istituiti presso le Camere di Commercio, c'è anche il Consumer Forum, di cui vi racconterò fra qualche istante. Insomma, le possibilità sono tante, l'idea è anche quella di capire quale tavolo percorrere, quale strada percorrere a seconda del conflitto che ho, perché magari non vanno tutti quanti bene, a prescindere, diciamo, dal costo, che è diverso a seconda del tipo di risolutore che si sceglie. Sentiamo i nostri ascoltatori e cominciamo un po' ad animare la nostra trasmissione. Giuseppe, dalla provincia di Ragusa, buongiorno, cosa le è successo? Buongiorno dottoressa, saluto i suoi ospiti. Dunque, questa è una situazione incresciosa e voglio denunciare pubblicamente. Da aprile scorso non faccio altro che inoltrare fax, raccomandate, telefonate alla banca Barclay, una banca olandese che ormai ha coperto il territorio italiano. Bene, io con questo ho avuto un prestito personale, a un certo punto ho chiesto l'estinzione anticipata, ebbene, fateci arrivare un fax, il fax è illeggibile, rifaccio il fax, dove l'ha mandato il fax qui non ce l'abbiamo. No, l'altro Giuseppe, mi scusi, quando ha sottoscritto questo prestito è andato direttamente in banca ad uno sportello, si è rivolto, perché loro usano anche degli intermediari appunto sul credito, sul territorio, dei promotori? A chi allora, si è rivolto? Io ho avuto un contatto telefonico con un loro promoter, probabilmente, perché ero già cliente con una carta revolving. Sì, ok. Ecco, da lì poi è nata questa mia idea, sì. A un certo punto, da maggio scorso, ho chiesto l'estinzione anticipata. Bene, a 8 mesi non sono riuscito a estinguere questo prestito. Non solo, ancora stamattina faccio un'ulteriore telefonata mandando un fax 10 dicembre per l'estinzione anticipata compreso un rateo del 2 gennaio. Ebbene, adesso mi comunico che non è stata neanche lavorata, non se ne sa niente di questo fax. Però come mai mi hanno anche detto che il fax, prima mi dicono il fax era illeggibile, poi mi dicono, certo, che la tessera era scaduta. Sì, e Giuseppe, da lì poi mi sono reso conto. Guardi, che sono andata a averla definita incresciosa è poco. Io quello che le posso dire, Giuseppe, magari guardi, adesso cercheremo di darle qualche indicazione su cosa può fare, se agendo presso l'ADR può essere appunto anche un modo pertinente per poterli obbligare a darle una risposta. Da quello che so, peraltro, questa banca che ha erogato tanti mutui in passato adesso ha completamente chiuso i bottoni del credito in Italia. Credo che abbiano proprio avuto anche indicazioni, spero di non dire delle cose scorrette, ma me lo hanno raccontato delle persone che conoscono molto bene questo mondo, hanno proprio anche l'indicazione di non erogare più nessun tipo di prestito e finanziamento in Italia. Detto questo, sono delle scelte, molte banche le hanno fatte in questo periodo. Mi fa specie il fatto che una persona che addirittura ottempera tranquillamente alle sue rate vuole chiudere anticipatamente, sarebbe un po' di liquidità che entra in banca, e che questi addirittura si facciano ciel di bosco oppure di fronte ad un cliente che vuole chiudere il suo finanziamento e quindi si comporta assolutamente correttamente. È chiaro che la banca rinuncia ad un po' di interessi, ma santo cielo, quale prestito che sarà mai? Allora, professor Gambero, da quello che capisco, Giuseppe, non so se ha fatto, ecco, mi sono dimenticata di chiederlo, un formale reclamo alla banca, però mi pare che i presupposti per potersi lamentare presso la BR ci sono tutti. Sì, voglio dire, poi il reclamo non viene mai inteso in senso puramente formale. Basta che ci sia un atto scritto in cui il cliente chiede un qualche cosa all'intermediario. Se l'intermediario non è in grado di rispondere, ci si può rivolgere direttamente alla BF. Il caso è un caso abbastanza classico, ne abbiamo visti sì abbastanza, però la regola è questa: quando il cliente chiede l'estinzione anticipata, normalmente chiede anche di ricevere i conteggi necessari per procedere. Se la banca non glieli fornisce, la banca è già inadempiente. Quindi... Certo. Professor Gambero, tra l'altro, non le chiederò, non la metterò in imbarazzo chiedendole di farmi dei nomi, ma avete fatto anche una classifica delle banche che sono un po' più scorrette? No, non esiste una casistica di questo tipo, non vi interessa farla, oppure la fate, ne ridete tra di voi, ne parlate tra di voi, un po' di moral suasion da parte della DF, della BF, mi viene da dire. Direi di no, non abbiamo fatto nessuna classifica, anche perché noi facciamo sostanzialmente l'attività di giudice, cioè decidiamo come decisori. Chi invece le tiene presente è sicuramente la vigilanza della Banca d'Italia, perché come è previsto dalle norme istitutive la nostra attività poi si integra a monte con l'attività generale di sorveglianza che la Banca d'Italia svolge sugli intermediari finanziari. Quindi. Prima di sentire altri ascoltatori, ancora 5 secondi con lei, professor Gambero. Allora, arriva un caso sul vostro tavolo, uno di quei 25 che trattate mediamente ad ogni seduta, ammettendo di volerlo accogliere, che tempi avete per impartire la direttiva di comportamento alla banca rispetto a quel caso? Dunque, i casi intanto sono prima predisposti dalla segreteria tecnica, c'è tutta un'attività importantissima che è svolta dalle segreterie tecniche. quando diciamo è maturo per la decisione, arriva sul nostro tavolo, ne discutiamo collegialmente e lo decidiamo immediatamente. Dal 1 gennaio, volendo, la decisione assunta è comunicata direttamente alle parti, nel senso che se noi ieri abbiamo assunto 27 decisioni, una è stata comunicata direttamente alla parte che ne aveva fatto richiesta. Quindi... Ah, questa è una delle novità peraltro di cui parlavamo prima. Sì, quali sì. Altre sono arrivate, professor Gambero? E poi c'è un'altra novità, nel senso che siccome siamo tre collegi, è stato istituito, ma per adesso non è ancora entrato in funzione, un collegio di coordinamento per evitare, diciamo, differenze di giurisprudenza tra i collegi, là dove ci sono questioni magari opinabili, un collegio decide in un modo, un altro in un altro, questo non è bello, e quindi è stato istituito un collegio di coordinamento che dovrà dirimere eventuali differenze tra i collegi. Ah certo, perché magari rispetto ad un caso simile ci può essere una pronuncia di un tipo a Napoli piuttosto che a Milano. Esatto, e quindi questo necessariamente è da evitare. Avete bisogno certo di un po' di coerenza, assolutamente. Anna Vizzari, volevo tornare da lei per così chiederle un suggerimento per Giuseppe da Ragusa. Che cosa deve fare con questa banca che non gli risponde, che non vuole chiudere il suo credito appunto con questa persona, con questo cliente, che deve fare? Beh, io più che limitarmi al fax utilizzerei anche altri strumenti di comunicazione, per esempio non quelli che usano quelli arrabbiati con Equitalia naturalmente. Esatto, ecco. Non quello, però tipo avendo un indirizzo email, magari una mail resta di più anche come prova, magari una raccomandata con ricevuta di ritorno per avere una prova appunto che la comunicazione è stata effettuata. Sicuramente il comportamento è davvero scorretto, per cui ci sono anche i presupposti per fare una segnalazione all'autorità garante della concorrenza del mercato, però sono tutti meccanismi molto lunghi, per cui la soluzione diventa, cioè, diciamo che è un diritto che non può essere esercitato, di fatto il cliente deve avere sempre la possibilità di estinguere anticipatamente. Ma io tra l'altro avrei voluto vedere se Giuseppe non pagava una rata di questo prestito, come lo trovavano immediatamente, come si facevano trovare subito, e invece quando chiaramente la relazione è al contrario qua si fa un po' più di difficoltà. Vorrei sentire Maria Teresa da Genova. Maria Teresa, buongiorno. Pronto, buongiorno. E complimenti per la trasmissione. Grazie. Innanzitutto. Grazie mille. Io telefono perché proprio ieri sono andata in banca a fare questa rimostranza, nel senso che io nel quarto trimestre, su un fido che ho sul conto corrente dell'azienda di 10.000 euro, sul quale ho pagato 69 euro di interessi, mi sono vista addebitare 500 euro di penale di sconfino per un loro errore di valuta, e quello. E più 200 euro di messa a disposizione fondi. Allora, quindi io mi sono è più il 13.75% di penale di sconfino, di nuovo di interessi di sconfino, che sarebbe una specie di commissione di massimo scoperto, quella famosa che era uscita legalmente, che era rientrata, che adesso però è rientrata con altri termini. Sì, lo so, Anna Vizza riconosce bene questa questione perché ce ne siamo occupati tanto, proprio, peraltro la stiamo abbandonando anche da un po' e non capiamo che fine abbia fatto. Quindi Maria Teresa si è lamentata con la banca, con la banca e mi hanno detto che vedranno quello che potranno fare. Certo. Però la mia domanda è questa: nell'istante in cui io ho un fido di 10.000 euro e utilizzo questi 10.000 euro, questa commissione di messa a disposizione fondi a me sembra che non debba essere applicata, per il semplice fatto che io lo utilizzo, quindi già ci pago l'interesse sopra, perché ci devo pagare anche questa commissione di messa a disposizione fondi? Maria Teresa, perché la commissione di massimo scoperto le banche hanno fatto fatica a rinunciare. Anna Vizzari. Sì, esatto, è una delle spese che sono state introdotte per sostituire proprio la commissione di massimo scoperto, sostanzialmente proprio perché si ha un fido si paga lo 0,5% a trimestre del fido concesso, quindi nel caso specifico immagino che il fido fosse 10.000 euro, 0,5, quindi all'anno diventa 50 euro a trimestre per 4, 200. E questa, diciamo che la somma è corretta. È corretta. Le 500 euro di penale. Sicuramente l'errore di valuta. Esatto. Adesso che non ho capito. Quello, secondo me su quello ci sono i presupposti per poter fare un reclamo. Se c'è un errore addirittura messo giù così dalla banca. Infatti. Mentre invece posso dire che comunque la radioascoltatrice ha assolutamente ragione, perché si tratta di comportamenti certamente non corretti, nel senso che, come lei dice, lei ha un fido proprio per la messa a disposizione della somma, deve pagare delle spese, peraltro ci sono altre, però ho sentito altre spese tipo la penale di sconfino, giusto, ho capito bene, penso di sì, che si aggiungono a quella somma. Se noi dovessimo fare un target di questo finanziamento, ipotetico finanziamento, avremmo delle percentuali assurde, per cui sicuramente è un campo su cui bisogna intervenire. Noi abbiamo attualmente una class action contro, posso dirlo, Intesa San Paolo, che è stata accettata dal Tribunale di Torino proprio su questo aspetto. Anche perché è quella che è l'unica forse in Italia che è riuscita ad andare avanti. Esatto, no? È l'unica che è riuscita ad andare avanti. Adesso a fine marzo dovremo avere tutte le indicazioni sulla pubblicità e quindi sulle adesioni, e speriamo che abbia esito positivo, perché sicuramente potrebbe essere un buon punto di partenza per modificare le norme. Allora, io non riesco a far intervenire altri ascoltatori, scriveteci, perché Anna Vizzari ci darà sicuramente una mano a rispondervi, a cercare di capire come poter risolvere i vostri casi. Professor Gambero, voglio però chiudere con lei, insomma, l'attività di tutti questi istituti che cercano di aiutare la clientela scontenta e soddisfatta, appunto, a risolvere le loro controversie con la banca. Che tipo di deterrente hanno rappresentato anche per un miglior comportamento del sistema bancario, che in questi anni è stato messo in croce più volte? Devo dire che tante volte anche la normativa che impone loro certi cambiamenti dall'oggi al domani non aiuta ad un comportamento, non dico corretto, ma trasparente con la clientela. 10 secondi come commento finale. Ma ci vuole tempo perché le grandi strutture si abituino, diciamo, a novità come l'ABF. La mia impressione è che lentamente si stanno abituando e quindi si stanno attrezzando per comportarsi in modo più corretto. Certo. Allora, per il funzionamento dell'arbitro bancario e finanziario, cercate su internet e vi metteremo, se vorrete, anche i riferimenti sul nostro profilo Facebook, salvadanaio-radio24. Professor Gambero, grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche ad Anna Vizzari, a presto. Grazie. Salvadanaio termina qui, noi ci sentiamo anche stasera a Focus Economia. A tutti, buona giornata. We'll be right back.